Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Immaginate di togliere a un treno l'attrito col terreno facendolo levitare e l'attrito con l'aria facendolo viaggiare in un tubo sottovuoto. E questa è l'idea di fondo alla base di Hyperloop, un super treno da 1200 km orari a basso consumo energetico, di cui abbiamo parlato altre volte e di cui il miliardario americano a suo tempo Elon Musk ha lanciato il concept, salvo poi pubblicarlo in open source e invitare chi ci credeva a svilupparlo non avendo lui tempo di farlo in proprio. Musk, però, fondatore di realtà come PayPal, Tesla Motor e SpaceX, non ha del tutto rinunciato a dire la sua, diciamo così, su Hyperloop e ha lanciato un concorso di idee poco tempo fa, invitando progettisti e ricercatori da tutto il mondo a presentare proposte per realizzare un primo prototipo in scala 1 a 2 previsto in estate negli Stati Uniti da testare su un percorso sperimentale di circa un chilometro. La SpaceX Hyperloop Pod Competition, questo è il nome del concorso, ha visto partecipare 1200 team di progettisti da tutto il mondo. Ebbene, la notizia è che tra le proposte selezionate ci sono gli ammortizzatori progettati da un gruppo di studenti dell'Università di Pisa, coordinati dal professor Marco Beghini, che ora hanno davanti a sé la prospettiva concreta di essere coinvolti nel progetto. Diamo allora il benvenuto a Emanuele Raffaele, che è studente dell'Università di Pisa, ormai quasi ingegnere, che è in linea con noi in rappresentanza appunto di tutto il team di studenti. Buonasera Raffaele e anzitutto complimenti. Buonasera a tutti, grazie per i complimenti. Intanto le sospensioni sono uno dei sottosistemi in realtà più critici per Hyperloop, ma in generale per tutti i treni ad alta velocità. Cominciamo da qui, perché? Date le alte velocità, quindi gli oltre 1000 km orari, qualsiasi perturbazione nel percorso produce dei forti scuotimenti verticali e quindi diventa critico dal punto di vista del comfort per i passeggeri. Forse un esempio che possiamo fare per far capire: noi tutti siamo abituati a rallentare, no? Quando vediamo uno di quei dossi artificiali per strada. Ora, esatto. Se andassimo a 1000 all'ora, anche un dosso di un millimetro ci costringerebbe a rallentare o prenderemmo una botta pazzesca. È un po' sì, questo, sì, no? Solo noi, ma anche la capsula prenderebbe una botta pazzesca e potremmo avere problemi di resistenza strutturale, ecco. E come l'avete risolto? So che avete sviluppato delle sospensioni che vengono dette attive. Ecco, ci spieghi che cosa vuol dire, che cosa hanno di speciale? Certo, noi siamo inizialmente partiti dallo studio di sospensioni tipo passive o passivo, che sono quelle normalmente utilizzate nei veicoli e nelle automobili comuni. Quindi sono le sospensioni tradizionali, dove ci sono delle molle o qualcosa del genere, esatto. E degli smorzatori, esatto, dei pistoni. Esatto, sospensioni tradizionali che un semplice sistema molla smorzatore. Le possiamo immaginare così, le sospensioni passive. Salvo poi avvicinarci abbiamo indagato soluzioni di tipo semiattivo e attivo che ci potessero garantire prestazioni migliori, quindi velocità di punta maggiori. Ecco, cosa consiste il fatto di essere una sospensione attiva? Una sospensione attiva sostanzialmente consiste in un attuatore attuato appunto elettricamente che regola real time la rigidezza e la forza di smorzamento. Quindi immaginiamo queste molle, questi smorzatori, i cui valori vengono aggiornati continuamente in modo tale da ottimizzare le prestazioni. Rispetto al tracciato. Esatto, tramite opportune strategie di controllo. Quindi vuol dire che se sta per arrivare uno di quei piccoli dossi, diciamo, di cui parlavamo, esatto. Si interviene. Esattamente, quindi ci sarebbe la possibilità o di leggere il tracciato con dei sensori in testa al pod, in testa alla capsula, o magari avere anche in memoria il tracciato del pod. Qui non stiamo parlando di un tracciato stradale che cambia continuamente, ma è un tracciato ben definito che quindi probabilmente potrà andare anche in memoria. Tra l'altro queste sospensioni attive si utilizzano per esempio in Formula 1, c'è stato anche tutto un dibattito a suo tempo sul regolamento, se non sbaglio, che riguardava proprio queste sospensioni, e lì c'è un radar davanti in testa alla macchina che legge continuamente l'asfalto, ma lì il percorso è codificato, ci sono quei due binari e si fa sempre esattamente la stessa traiettoria, dici, quindi non c'è bisogno. Esatto, si potrebbe memorizzare, certo, trattandosi di così piccole dimensioni, magari anche semplicemente una dilatazione termica o certo. Un piccolo spostamento del terreno potrebbe causare variazioni, ecco perché probabilmente se non proprio di un sensore si avrà bisogno di aggiornare continuamente la memoria, cioè il tracciato in memoria. So che avete cercato di lavorare su diciamo componenti che fossero recuperabili, esistessero già in commercio, questo per rendere più... Esatto. La forza, credo, del nostro progetto risiede proprio in questo. Abbiamo cercato quanto più di utilizzare elementi già presenti in commercio per una maggiore affidabilità del nostro sistema alla fine e per una maggiore anche praticità, direi, facilità di poterlo portare in fondo davvero, no? Insomma. Anche perché magari in questo modo un'eventuale scalabilità nel momento in cui si decida di costruire il pod in scala reale venga più facile. Dunque Raffaele, il 29 e 30 di gennaio sarete ad Austin in Texas a presentare insieme agli altri team selezionati le vostre idee, le vostre soluzioni, che dire, in bocca al lupo. Grazie a voi e speriamo che l'Hyperloop Team Pisa ci porti tante buone notizie. Anche per questa sera è tutto, vi ricordo che potete seguirci su Facebook e su Twitter. Buona serata, vi lascio a Effetto Notte.